Bibbia Martini. Atti degli Apostoli 8 nella persecuzione sono tutti dispersi, fuorché gli Apostoli. Saulo devasta la Chiesa. Filippo converte moltissima gente nella Samaria, e tra questi battezza Simon Mago. Pietro e Giovanni mandati dagli Apostoli, con l'orazione e la imposizione delle mani impetrano lo Spirito Santo ai Samaritani fedeli. Simone, volendo comprar con denaro la potestà di dare lo Spirito Santo, viene ripreso severamente da Pietro. Filippo è mandato da un angelo all'eunuco, e battezzato questo, che diventa fedele, egli rapito dallo Spirito è portato in Azoto. E si levò allora una grande persecuzione contro la Chiesa, che era in Gerusalemme, e tutti si dispersero per i paesi della Giudea e della Samaria, fuori che gli Apostoli. Ma uomini timorati fecero il funerale di Stefano, e fecero gran pianto sopra di lui. Saulo poi devastava la chiesa, entrando per le case, e strascinando via uomini e donne, li faceva mettere in prigione. Quelli frattanto, che si erano dispersi, andavano da un luogo all'altro annunziando la parola di Dio. E Filippo, arrivato alla città di Samaria, predicava loro Cristo. E la moltitudine concordemente prestava attenzione a quello che diceva Filippo, ascoltandolo e vedendo i miracoli che egli faceva. Impero che da molti, che avevano spiriti immondi, uscivan questi, gridando ad alta voce. E molti paralatici e zoppi furon sanati. Per la qual cosa fu grande allegrezza in quella città. Ma un certo uomo chiamato Simone stava già tempo in quella città, esercitando la magia, e seduceva la gente di Samaria, spacciandosi per qualche cosa di grande, cui davano tutti retta dal più piccolo fino al più grande, e dicevano: «Questi è quella virtù grande di Dio». E lo ubbidivano, perché da molto tempo li aveva ammaliati con le sue magie. Ma quando ebber creduto a Filippo, che evangelizzava loro il regno di Dio, si battezzarono nel nome di Gesù Cristo e uomini e donne. Allora Simone anche gli credette, e battezzatosi era intimo di Filippo. E osservando i segni e i miracoli grandi che seguivano, andava fuori di sé per lo stupore. Ora, avendo udito gli apostoli che erano in Gerusalemme come Samaria aveva abbracciata la parola di Dio, vi mandaron Pietro e Giovanni, i quali, arrivati che furono, pregarono per essi, affinché ricevessero lo Spirito Santo. Punto allora imponevano ad essi le mani, e ricevevano lo Spirito Santo. Avendo adunque veduto Simone, come per l'imposizione delle mani degli apostoli davasi in Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, che a chiunque imporrò le mani, riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Il tuo denaro perisca con te, mentre hai giudicato che il dono di Dio per denaro si acquisti. Tu non hai parte né ragione in queste cose, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Fa dunque penitenza di questa tua malvagità, e raccomandati a Dio, se a sorte ti sia perdonato questo vaneggiamento del tuo cuore. Impero che io ti vego pieno di amarissimo fiele, e tra i lacci della iniquità». Rispose Simone, e disse: «Pregate voi per me il Signore, affinché non cada sopra di me niente di quello che avete detto». Ed egliino, dopo aver predicato e renduto testimonianza alla parola di Dio, se ne tornavano a Gerusalemme, e annunziavano il Vangelo a molte terre d'ex samaritani. Ma l'angelo del Signore parlò a Filippo, e dissegli: «Levati su, e va verso mezzogiorno alla strada, che mena da Gerusalemme a Gaza, questa è deserta». E si alzò, e partì. Ed eccoti un uomo di Etiopia, eunuco, che molto poteva appreso caudace regina degli Etiopi, e aveva la soprintendenza di tutti i suoi tesori, il quale era stato a Gerusalemme a fare adorazione, e se ne tornava sedendo sopra il suo cocchio, e leggendo il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: «Va avanti, e accostati a quel cocchio». E portato visi di corsa Filippo, lo sentì, che leggeva il profeta Isaia, e disse: «Intendi tu quello che leggi?» E quegli disse: «Come lo posso ch'io, se qualcheduno non è me che insegna?» E pregò Filippo che salisse a seder con lui. Il passo della scrittura che egli leggeva Era questo, come pecorella è stato condotto al macello, e come agnello, che si sta muto dinanzi a colui, che lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua depressione fu scancellata la sua condannazione. Chi spiegherà la di lui generazione, perché è tolta dal mondo la di lui vita? Rispose a Filippo l'eunuco, e disse, ti prego, di chi il profeta dice egli queste cose? Disse, o di alcun altro? E Filippo aperta la bocca, e principiando da questa scrittura, gli evangelizzò Gesù. E seguitando a camminare arrivarono a un'acqua, e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, qual ragione mi vieta d'esser battezzato? E Filippo disse, se credi di tutto cuore, ciò è permesso. Ed egli rispose, e disse, credo che Gesù Cristo è figliuolo di Dio. E ordinò, che il cocchio si fermasse, e scese nell'acqua l'uno, e l'altro, Filippo, e l'eunuco, e lo battezzò. E usciti che furon dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non il vide più. E se andava allegramente al suo viaggio. E Filippo si trovò in Azoto, e io passando predicava il Vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarea. Note, 8,1. Una grande persecuzione contro la Chiesa, e C.S. Paolo in questo libro, capitolo 26. 10. Accenna, che questa persecuzione diede non pochi martiri a Gesù Cristo. E tutti si dispersero e ci. Alcuni interpreti credono, che per questa parola tutti abbiansi a intendere che 120 discepoli di Cristo, dei quali si parla capitolo 15. I quali come più conosciuti, e come ministri della parola, erano esposti a maggior pericolo. Di questo numero i soli apostoli rimasero in Gerusalemme per consolare, e confermare la Chiesa, preservandoli Dio miracolosamente dal furore di Saulo, e di tanti altri arrabbiati nemici di Gesù Cristo. 8,2. Fecero il funerale di Stefano, e ci. La voce latina curare significa tutti gli estremi uffizi, che rendevansi al morto, il lavarlo, l'imbalsamarlo, portarlo alla sepoltura. L'originale greco usa una voce, la quale propriamente significa il trasporto, che si fa dei frutti della terra nelle celle a ciò destinate, come se dir volesse. Riposero Stefano quasi frutto primaticcio del martirio nella terra, donde poi fosse trasferito mediante la risurrezione nel cielo. E fecer gran pianto e ci. Era questa una specie di onore, che rendevasi al morto tra gli orientali. Ma lo onorò molto più il Signore con gielle innumerabili e stupendi miracoli, operati dalle sue preziose reliquie, sopra di che è da vedersi esse, Agostino de Civ. Dei Lib 22. Capitolo 8. E nell'Epist. 103, 8,3. E strascinando via Eci. Si vede da ciò la ragione, per cui egli di poi confessava di essere stato non solamente persecutore, ma anche oltraggiatore violento della Chiesa. 1. Timi, 13. Li faceva mettere in prigione. Intendesi per ordine del Sinedrio, il quale anche in questo tempo aveva diritto e di imprigionare, e di flagellare gli ebrei. 8,4. Andavan di un luogo all'altro e ci. Dal capo 11. 19. Si vede, che non andarono solamente qua e là per le città della Giudea, e della Samaria, ma si stesero, almeno alcuni, anche a paesi più lontani. Così la provvidenza divina fece, che servisse ad accelerare la propagazione del Vangelo la stessa persecuzione, al qual Vangelo preparavano le vie i cristiani dispersi, portando per tanti paesi la notizia del nome di Gesù Cristo, il dono dei miracoli, e delle lingue, e la semenza della dottrina cristiana. 8,5. E Filippo arrivato e ci. Questo Filippo non è l'apostolo, ma il diacono mentovato di sopra, capitolo 6, 5, come apparisce evidentemente e dall'aver lasciato Gerusalemme, lo che non fecer gli apostoli, verso. I. E dal non aver questo l'autorità di imporre le mani, cioè di dare il sacramento della confermazione, verso 14 alla città di Samaria. Alla capitale dei Samaritani chiamata una volta Samaria, di poi Sebaste, nome datole da Erode in onore di Augusto, dopo che lo stesso Erode l'ebbe rimessa in piede, e abbellita, essendo stata poco avanti rovinata interamente da Ircano, come racconta Giuseppe, Antic. 13:18. Predicava a loro Cristo. I samaritani di quel tempo potevano considerarsi come ebrei, non solo perché vi era ancora tra essi qualche numero di israeliti, ma anche perché avevano la circoncisione, e ricevevano le scritture, e si gloriavano di avere Abramo per padre, quantunque la maggior parte fossero gentili di origine, e il culto del vero Dio contaminassero con l'idolatria Gesù Cristo medesimo avendo predicato in Sicar, e convertiti molti samaritani, avea dato motivo di riguardare i samaritani come compresi nell'alleanza. 8:10. Questi è quella virtù grande di Dio. S. Giustino, parlando di Simone, dice che molti lo adoravano come il sommo Dio. E lo stesso raccontano S. Ireneo, S. Girolamo, e altri padri. Diceva dunque questo mago, se essere quel Dio, il quale era sotto vari nomi onorato da tutte le genti, come il primo e più grande di tutti. 8:13. Simone anch'egli credette. Credette in apparenza, finse di credere sì per non restar solo, mentre tutti i suoi discepoli credevano a Filippo, e ricevevano il battesimo, e sì ancora per la vana speranza di ottenere la podestà di far miracoli, così S. Ireneo, S. Girolamo, e altri padri. 8:15. Pregarono per essi, eci. Da questo e simili esempi si vede, come la Chiesa ha sempre fatto precedere l'orazione all'amministrazione dei sacramenti, per domandare a Dio le disposizioni necessarie e per chi li amministra, e per chi li riceve. 8:16. Erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Convien guardarsi dal credere, che queste parole significhino che a questi samaritani fosse stato conferito il battesimo con l'invocazione del solo nome di Gesù Cristo, cioè di una sola delle persone della SS Trinità. La forma invariabile di questo sacramento è sempre stata quella insegnata da Gesù Cristo medesimo: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Essere adunque battezzato nel nome di Gesù vuol dire essere battezzato nella fede di Gesù Cristo, per divenire membro del corpo mistico di Gesù Cristo. 8:17. Allora imponevano ad essi le mani, e ricevevano lo Spirito Santo. Il motivo adunque, per cui andarono a Samaria Pietro e Giovanni, fu per amministrare a quei neofiti il sacramento della confermazione, ossia della cresima, il qual sacramento non poteva lor conferire S. Filippo, che era semplice diacono. Questo sacramento nei primi secoli della Chiesa si dava immediatamente dopo il battesimo, dandosi in esso, come dice S. Cipriano, la perfezione del cristianesimo, ed era in questo tempo ordinariamente accompagnato dai doni dei miracoli, di profezia, delle lingue, eci 8:18, avendo adunque veduto Simone, eci. Anche queste parole dimostrano che l'operazione interiore dello Spirito Santo comunicato dagli apostoli a neofiti si manifestava con esterni segni sensibili, quali erano la profezia, le lingue, il curare le malattie, eci. Quindi ebbe motivo Simone animato dallo spirito di ambizione, e di superbia, e forse anche di avarizia, di tentare in qualunque maniera di fare acquisto della potestà, che vedeva essere negli apostoli. Vedi vers. 2:8:20, hai giudicato che il dono di Dio per denaro si acquisti. I doni di Dio sono liberi, e gratuiti, le cose sante non debbono stimarsi a prezzo di denaro, né vendersi, né comprarsi, come si fa delle cose terrene. Questo era l'errore gravissimo di Simone, e questo è stato nella Chiesa il principio di infiniti mali, ogni volta che le cose divine, le dignità ecclesiastiche, i sacramenti, ci sono divenuti materia di traffico, e quindi l'eresia dei simoniaci, contro dei quali ad imitazione di Pietro hanno fulminato tanti anatemi i padri, e i concilii, e i romani pontefi. 8:21. Tu non hai parte né ragione in queste cose, perché il tuo cuore eci. Da queste parole pare che possa inferirsi che Simone si fosse veduto privo di quei doni soprannaturali che risplendevano in tutti, o nella maggior parte di coloro, che erano stati confermati nello stesso tempo, onde pieno di invidia tentò stoltamente di corrompere gli apostoli, come se fossero questi padroni delle grazie celesti. E sembra ancora che l'apostolo attribuisca alla segreta infedeltà di Simone il non averlo Dio arricchito dei doni concessi agli altri, 8,22, se a sorte ti sia perdonato eci. In questa maniera l'apostolo, lasciando il suo luogo alla speranza fondata nella infinita bontà di Dio, procura di far comprendere a Simone la gravezza dell'ingiuria fatta allo Spirito Santo, e la difficoltà del perdono. 8,23, pieno di amarissimo fiele, e ci vego il tuo cuore premio di mortale veleno per l'ambizione, la superbia, l'invidia, l'ipocrisia, le quali passioni ti hanno precipitato nei peccati, da quali ti trovi avvolto. 8,24, pregate voi, affinché non cada eci Simone temè, che Pietro non lo punisse col repentina morte, come già Anania, e questo timore è quello che lo induce a dar segni di pentimento. Ma scosso ben presto questo timore, quest'infelice non solamente ritornò ad esercitare il suo primo mestiere di mago, ma si abbandonò iziandio alle più infami dissolutezze, e divenne uno dei più arrabbiati nemici del nome cristiano. Trovandosi a Roma in tempo, che regnava Nerone, presso del quale era in gran credito la magia, Simone promise all'imperatore di volare, e di salire al cielo, e portato dai demoni, si alzò effettivamente in alto, imma s. Pietro, e s. Paolo postisi in ginocchio, e invocato il nome di Gesù, atterrirono in guisa i demoni, che abbandonarono il mago, il quale precipitato per terra miseramente perì. 8,26, verso mezzogiorno alla strada, che mena da Gerusalemme a Gaza. Filippo era tuttora in Samaria, quando l'angelo gli ordinò di andare verso mezzodì sulla strada da Gerusalemme a Gaza. Infatti la città di Gaza resta verso mezzodì riguardo a Samaria. Gaza era stata interamente distrutta da Alessandro il Grande, ma era stata di poi riedificata in luogo più vicino al mare. Questa è deserta. Questo alcuni lo intendono della città, ma sembra più verisimile che debba intendersi della strada, volendo l'angelo avvertire Filippo di non prendere la strada comune, e più battuta, che menava da Gerusalemme a Gaza, ma quella, che era abbandonata, e deserta, perché questa strada face all'eunuco. D'altra parte non si vede il motivo per cui fosse necessario di avvertire che la città di Gaza era spopolata. 8,27. Un uomo di Etiopia, Eci. La patria di quest'eunuco era l'isola, o penisola di Meroe, la quale faceva parte dell'Etiopia, e dove regnavano le donne, e queste regine da Augusto sino a Vespasiano portarono tutte il nome di Candace. È da notarsi come presso gli ebrei era in sommo dispregio il nome di Etiope. Così Dio dà a vedere che nessun genere di uomini è escluso dalla grazia del Salvatore. Affari e adorazione. Benché alcuni padri abbiano creduto che questo eunuco fosse gentile, non di meno generalmente viene gli creduto proselito, il che può intendersi non solamente dall'essersi portato al tempio per orare, ma molto più dallo studio che faceva delle divine scritture. 8,29. E lo Spirito disse a Filippo, Eci. Lo Spirito Santo con interna ispirazione fece intendere a Filippo di accompagnarsi con l'eunuco. 8,31. Come tu possi io, se qualcheduno eci. Quella specie d'uomini, i quali ardiscono di spacciare che la scrittura sacra è piana, e intelligibile per tutti, e che non vuoi bisogno né degli insegnamenti dei padri, né dello Spirito, che assiste alla Chiesa, per essere guidati a penetrarne i misteri, sono ben lontani dalla modestia, e dalla sincera umiltà di questo eunuco. E mentre in questa difficile navigazione non solo non cercano di bussola che li guidi, ma presuntuosamente la sprezzano, e la rifiutano, e al proprio spirito si abbandonano, traditi dalla falsa opinione del proprio sapere, congelle infiniti errori, nei quali vanno ad urtare, faranno fede in ogni tempo, che la sola autorità lasciata da Dio nella sua Chiesa può fissare la vera intelligenza della divina parola, e conservarne l'integrità. 8,32. Come pecorella eci. Il luogo di Isaia è citato secondo la versione dei LXX. 8,33. Nella sua depressione fu scancellata eci. Dopo l'umiliazione, che egli soffrì volontariamente, è stata rivocata la sentenza di morte portata contro di lui. Egli è stato liberato dalla morte e dal sepolcro, essendo risuscitato con tanta gloria. L'ebreo legge fu tratto fuori dal chiostro, e dal giudizio, vale a dire dal sepolcro, e dalla morte, alla quale era stato condannato. Chi spiegherà la di lui generazione, perché eci? Chi può spiegare la eterna altissima generazione del Verbo di Dio, il quale fatto uomo per ubbidire al Padre ha consentito, che tolta gli fosse come a malfattore la vita sopra la terra? 8,34. Di sé o di alcun altro? L'eunuco leggendo le scritture, avea imparato che Isaia avea sofferto molte persecuzioni e disastri, quindi non sapeva se di se stesso potesse avere scritto queste cose il profeta. 8,35. E, principiando da questa scrittura, eci. Il discorso di Filippo non poté essere breve, impero che fece vedere all'eunuco in Gesù Cristo avverate perfettamente le insigni profezie di quel profeta, del quale niuno parlò più altamente, né più minutamente di tutto quello che risguardano il Messia, e il Salvatore di tutte le genti. E di più lo istruì della necessità e virtù del battesimo. 8,38. E scesero nell'acqua l'uno, e l'altro, Filippo, e l'eunuco, e lo battezzò. Il battesimo si dava allora, e continuò a darsi per molto tempo per immersione. 8,39. Lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco eci Filippo fu trasportato, come già Abacuc. Vedi Daniel. Ult. 35. Quest'eunuco divenne l'apostolo della sua nazione, e gli abissini anche oggigiorno si gloriano di aver da lui ricevuto la fede. 8,40. Filippo si trovò in Azoto. Questa città era dei Filistei, lontana 270 stadi da Gaza, secondo Diodoro Siculo. A Cesarea. Detta Cesarea di Strabone, la quale sembra essere stata la patria di Filippo. Vedi Act. 21:8.